Siamo in collegamento con Tano D'Amico. Intanto Tano, ben ritrovato. Grazie, un grande abbraccio a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che hanno la pazienza di starmi a sentire. È sempre un piacere, Tano. Allora, parliamo di 77, una storia di 40 anni fa al Museo di Roma in Trastevere, a partire dal 22, ossia da domani, venerdì 22 settembre. Intanto ti chiedo, com'è nato il progetto, Tano? Il progetto non è mio, come sempre. Io sono contro i progetti, le cose, sono contro le cose fatte a freddo. È di un mio amico molto caro che si chiama Gabriele Agostini, che crede molto nelle immagini, infatti ha una bellissima scuola di fotografia, e lui si è dato da fare per raccogliere in mille posti immagini di tutti i tipi per celebrare, secondo lui, i 40 anni dal 77. Sì. Senti, questa idea di questo binomio con Pablo Echaurren, grandissimo artista che proprio nel 77 ha fatto degli esperimenti, ha creato delle immagini che rimangono ancora, copertine di libri, fanzine, è presente in molta grafica, oserei dire tutta, del 77. Sì. Le immagini, questo per dire, tu che fai questa bellissima cosa di teatro, di cinema, eccetera, ti devi essere accorto che tra movimenti e immagini c'è un legame molto ma molto stretto. Perché questo? Perché quando le persone nella loro vita singola o collettiva si accorgono che le parole che già esistono non bastano più, allora si rivolgono alle immagini, si rivolgono al linguaggio astratto delle immagini, della musica, e infatti nelle belle immagini sembra di sentire una musica, una bella musica. Così anche quando sentiamo un bel pezzo di musica vengono fuori le immagini. Sono molto legate alla musica e alle immagini, ai linguaggi astratti, e quei periodi nella vita di tutti quanti noi in cui ci accorgiamo che il mondo con le sue parole non è fatto per noi, o almeno è incompleto. Sì. Senti Tano, quante sono i tuoi lavori esposti al museo? Penso che siano 100, un po' più di 100, e sono opere le mie del 77, appunto, e sono quelle immagini che la stampa dell'epoca non ha voluto. Quando parlo di stampa intendo tutta, anche quella della sinistra, che cercava delle immagini che mostrassero i giovani che si battevano per le strade degli esseri assetati, come dei mostri, di violenza e sangue. Lì si vedono nell'umanità, si vedono nel gioco, nel lutto, ahimè, purtroppo, nell'amore, ecco, nelle vicende terribili con cui hanno tolto dal mondo delle istanze bellissime, splendide, di cui quei giovani erano portatori. Sì. Senti Tano, oltre per quanto riguarda i luoghi, oltre Roma, quali sono quelli esposti? Bologna, okay. Milano, ecco, Napoli, è un po' il paese tutto, questo paese che è composto di diversi popoli che penso si vogliano bene. Senti, protagonisti e protagoniste, il movimento studentesco, gli operai, le case occupate, che altro, Tano? Ecco, anche che cos'è? Eva, sono tutti quegli esseri umani che, tenendosi per mano, in quell'anno sono scesi in strada per urlare tutti quanti insieme. Sono i giovani anche delle periferie, delle borgate, che finalmente scendono in centro e si trovano in centro, pronti a ribaltare quella storia, ormai lunga un secolo, che li aveva confinati, più di un secolo, che li aveva confinati loro, i loro padri, i loro nonni, che vivevano in centro, che erano il popolo romano, sono stati deportati nelle borgate, dove non hanno più alcuna possibilità. Sì, sì. Senti Tano, quali sono secondo te le migliori espressioni di quell'annata? Le migliori espressioni, se noi pensiamo al canto, che non è il mio campo, a me vengono in mente alcuni versi e ritmi di Claudio Lolli. Ho visto dei zingari felici, la musica di quegli anni, le parole di quegli anni, i poeti, il teatro. Ecco, io penso a Carmelo Bene, sì, che ha portato con il suo modo di essere attore, con la sua vita di uomo attore, ha portato anche lui al 77. Che sì. Cos'è il 77? Cioè il fiorire tutte quante insieme di quelle istanze che vanno sotto il nome di anni 70. Ecco, quegli anni in cui veramente forse il paese e un po' il mondo poteva imboccare degli altri modi di vita, e invece tutto ciò è stato fermato con l'intrigo, con la forza, con la violenza, con l'inganno. Sì. E tutto si è bloccato. Ora, quello che dico, che sembrano le parole di un vecchio pazzo, eccetera, ma alcune università, tra le più grandi al mondo, come quella di Yale americana, mettono insieme il 77 e i nostri anni 70 insieme alla Repubblica di Weimar, cioè a tutti quei sogni che potevano incarnarsi e che sono stati stroncati con la forza. Qualche altra università parla di similitudini con la Comune di Parigi, se è poco. Insomma, il 77 per me rimane un anno importante, sì, nella mia vita e nella vita di tutti quanti noi. Allora Tano, oltre alla mostra c'è anche una pubblicazione. Sì, che io però non ho visto. Spero che sia bella. Spero che sia bella. Sarà senz'altro bellissima, stupenda. E la mostra è dal 22 di settembre, sì, e sì, fino dal 22, a? Dal 23 mattina, perché il 22 è l'inaugurazione. È la sera, ecco, cioè dal 23 mattina, io andrei lì dal 23 mattina al 14 gennaio. Quindi sarà lunghissimo. C'è modo per vederla con tranquillità, insomma. Sì, sì. Tano, allora io ti ringrazio, è sempre un piacere. Guarda, io ringrazio te tantissimo. Grande abbraccio. Ci sentiamo presto. Grazie. Ciao, grazie. Tano. Ciao. Ciao.